E buonasera a tutti e a tutte, come preannunciato prima della sigla, puntata di Entropia Massima. Dopo la puntata introduttiva in cui eravamo tutti di lunedì scorso, sempre intorno alle 8:05, 8:10 come questa settimana e come per le prossime avvenire, ci siamo noi. Oggi questa puntata ci sarà Alberto Castagnola con la sua rubrica, ci parlerà dei temi che abbiamo di cui abbiamo già anticipato la scorsa settimana, quindi di ambiente, ricordiamo che quest'anno il nostro tema più comune tra un po' tutte le voci, le anime di questa trasmissione è il rapporto scienza e potere, il rapporto tra scienza e potere. Quindi Alberto, a te l'onore di aprire la prima trasmissione di questa nuova annata di Entropia Massima. Bene, questo, quindi sono molto orgoglioso di questo onore e cercherò, anzi oggi stasera ho fatto un po' una fatica a raccogliere tutti i dati, perché ho cercato di non interrompere la nostra informazione, cioè in sostanza vi dirò dei dati relativi al periodo tra giugno e, diciamo, i primi di ottobre. Questo in modo che chiunque segue le trasmissioni o va sul sito possa avere una sequenza precisa dei dati. Questo è un principio scientifico, no? Cioè, perfetto, avere a disposizione questo tipo di informazione. E questi dati sono particolarmente gravi, nel senso importanti e gravi, perché abbiamo avuto varie questioni, quindi un'ondata record di caldo in tutta Europa e anche in altre zone del mondo. Però l'Europa è stato particolarmente accentuato e siamo arrivati in Francia a, e questo sempre nel mese di giugno, a 45,9 gradi a Rouen, che per l'Europa è una cifra estremamente elevata. 45,9 di temperatura percepita, quindi? No, che percepita, questa è quella, niente, no, percepita è una... È un'altra cosa. Soprattutto una categoria stranissima che non si deve usare. Ok. Perché esistono circa 150 indicatori di percezione, quindi ognuno poi lo usa come vuole, eccetera. Quindi può essere distorta a piacimento. Dati in gradi centigradi regolari e presi da osservatori attendibili. E a luglio stessa questione si verifica con un 32 gradi in Alaska, quindi stiamo veramente in una situazione dove la media era di 23 gradi. E il record precedente, se vogliamo dire così, nel 1969 era di 29 gradi. E invece in questi mesi noi siamo arrivati a 32, ripeto, in Alaska. Allora, l'altro tipo di informazione che voglio dare è sull'Italia, perché sull'Italia ovviamente abbiamo avuto anche noi mesi caldi, e soprattutto abbiamo avuto un mese, quello di giugno, in cui non è mai stato, scusate, il mese di luglio, che è stato il più caldo dal momento in cui, dal 1880, si sono cominciate a registrare a livello internazionale le temperature. Quindi con una punta di 50 gradi in alcuni momenti, in alcune zone, e soprattutto abbiamo avuto in Sardegna 14.000 fulmini. Quindi un mese particolarmente, come posso dire, eccezionale, però purtroppo non è eccezionale, cioè è il risultato del riscaldamento degli anni precedenti. Cioè, se voi andate a rivedere diciamo sul sito le trasmissioni precedenti, vedrete la sequenza, è sempre in aumento. Però 14.000 fulmini e 50 gradi di media mi fa venire in mente più una foresta tropicale, certo, non certo le nostre latitudini. Noi siamo, c'è un altro dato che forse devo dirvelo dopo, ma insomma posso dirtelo adesso. È l'indicazione che abbiamo in prospettiva, quindi non adesso ma in prospettiva adesso, c'è uno spostamento di un punto nord verso il sud in termini di calore di circa 1000 gradi, cioè di 1000 di differenza chilometri, cioè in sostanza c'è la fascia del clima si sta spostando verso il sud, quindi le terre del nord sono sempre più calde e diventano tanto per capirci stanno cominciando a coltivare banane e avocados in Sicilia, cioè si è spostata proprio la fascia, no? Questo vale per tutti i paesi in misura diversa ovviamente in termini di chilometri, però questo è l'ordine di grandezza e questo spiega anche in parte il fatto che tutta una serie di culture non sono più adatte per quel clima e viceversa, e quindi anche è una delle tante cause che spingono i movimenti migratori, quelli determinati dall'ambiente, perché cambiano proprio le condizioni di tutto il terreno e quindi di tutte le produzioni agricole. Allora, quindi questa estate è stata particolarmente, come posso dire, turbolenta, se la vogliamo chiamare in questo modo, però evidentemente ancora questo tipo di dati non sono sufficienti per modificare l'atteggiamento governativo, di cui parleremo verso la fine della trasmissione. Questo è il secondo tipo di dati che vi dovevo fornire. Sempre a seguito di questo riscaldamento, l'Artico ha cominciato a essere percorso da incendi, cioè per Artico si intende Alaska da una parte e Siberia dall'altra, con una aggravante, un dettaglio in particolare che vorrei sottolineare. Quindi intanto abbiamo visto, ci sono tutte le foto, i film, le riprese eccetera di questi incendi in territori che in genere erano coperti di neve, di ghiaccio, insomma, cioè c'era una situazione completamente diversa, e invece vanno in fiamme. E per quale motivo ci sono queste fiamme? Non tanto, ovviamente essendo così, in un clima così infelice, non possiamo ipotizzare che siano tutti incendi dolosi per poter poi coltivare questi terreni eccetera, cioè non è questo. Questo vale per l'Amazzonia ma non vale per l'Alaska e per la Siberia. Invece il discorso è che va a fuoco la torba, cioè le piante, radici, piante e cioè che stavano sotto i ghiacci, e questa torba è carica di CO2, quindi quando brucia rappresenta un'emissione di anidride carbonica percentualmente superiore a quello della legna normale. Quindi questo fenomeno quindi cambia anche qua il regime complessivo di due regioni così grandi. Quarto punto, l'ho citato adesso, l'Amazzonia. L'Amazzonia, anche qua i dati sono terribili e ce ne sono moltissimi, perché l'Amazzonia è stata dedicata molta attenzione, ci sono stati dei conflitti. Il G7 è andato a fuoco una zona particolarmente ampia, cioè c'è ancora un incremento del 60% sui livelli di deforestazione precedenti dell'anno scorso e di 2 anni fa. Quindi è aumentato il tasso di deforestazione, dell'Amazzonia in gran parte a causa del fuoco e della politica in questo caso. Sì, però questi sono fattori diversi. Perché il nuovo presidente Bolsonaro ha dichiarato che queste, molte di queste aree potevano ridiventare oggetto di, come dire, di sboscamento a fini produttivi agricoli. Quindi questo mette in discussione tutte le aree riservate agli indigeni che vivevano all'interno della zona amazzonica e che però erano state in passato delimitate e quindi erano zone protette. E dall'altra parte ci sono progetti di strade che attraversano proprio la foresta da una parte all'altra e quindi tutti i fenomeni che hanno contribuito ampiamente al disboscamento. Con qui invece è molto chiaro il fatto che gran parte sono incendi dolosi, quindi attizzati da persone o da imprese che vogliono avere dei terreni già puliti, no? Per poter pronti fare, per essere coltivati, insomma. Per poter essere coltivati, e le coltivazioni sarebbero poi di tipo intensivo che a loro volta sono particolarmente dannose. Quindi c'è quello che deve essere sempre molto chiaro è che c'è una forte riduzione del meccanismo positivo, cioè l'assorbimento della CO2 da parte delle piante, mentre aumenta, cioè diminuisce quindi questa capacità di assorbire la CO2, e viceversa aumenta, come dire, la emissione di CO2 da parte delle coltivazioni tipo la soia. Certo. E quindi c'è, come dire, un doppio danno, cioè un doppio meccanismo di danno. È un doppio meccanismo che a questo punto dobbiamo anche unire. Scusami? È un doppio meccanismo che uniamo anche a quello che dicevi prima sull'Alaska, con ulteriori, esatto, emissioni di CO2, esatto, di materiale derivanti dalla torba. Nella torba, sì, da materiale, esatto, organico fondamentalmente. Quindi questa situazione è stata. L'ultimo, un dato tanto per capirci, nel mese di giugno si sono perduti 778 chilometri quadrati di suolo, che significa, per essere un po' così, un po' fan dal punto di vista del calcio, significa la distruzione di una foresta grande come un campo di calcio ogni minuto. Cioè, per avere l'immagine di che cosa significa 778 chilometri quadrati, perché sennò rimane un dato così un po' astratto. Ecco, quindi questa è la situazione dal punto di vista dell'Amazzonia. A queste si aggiunge le Canarie, ci sono stati dei fuochi e degli incendi molto consistenti nelle Canarie, e soprattutto quello che è successo durante il mese di agosto in Groenlandia, che già era sotto le brame di Trump che voleva acquistarla, senza tener conto del fatto che già c'erano 4 impianti cinesi che stanno estraendo i minerali dalla Groenlandia, insomma, cioè non era così facile acquistare questo posto. E soprattutto però qui c'è molto materiale, ho trovato moltissimi giornali e articoli vari, perché la Groenlandia si è sciolta molto rapidamente, praticamente la totalità dei ghiacci invernali che la coprivano, che a loro volta già da tempo erano in fase di diminuzione. Poi ulteriore elemento, cioè i mari. Cioè i mari si presentano ormai come in fase di ulteriore riscaldamento, e questo si apre un meccanismo che è un po' complicato da spiegare, anche io non lo so con molta esattezza, perché quando il mare si riscalda, cioè l'acqua del mare si riscalda, ovviamente aumenta l'evaporazione, cambia la situazione, quindi anche, diciamo, in cielo, le nubi e via dicendo, e quindi tutti questi meccanismi danno luogo a una più facile formazione di tifoni, tempeste, eccetera, e qui da un lato, e dall'altra parte con il riscaldamento l'acqua del mare tende a salire, cioè a crescere. finora con misure dell'ordine dei millimetri all'anno, eccetera, eccetera, in alcune zone. In altre zone stiamo già parlando di metri. Quindi questo bisogna sempre stare molto attenti, perché quando si parla poi dell'innalzamento dei mari e si parla di un metro e mezzo dal 2100, cioè una prospettiva lunga, non si tiene conto del fatto che questo riscaldamento invece in alcune zone è molto maggiore, e quindi esistono già 4 isole in Thailandia che sono andate sott'acqua, altre in Oceania che stanno già sott'acqua. Cioè l'andamento non è omogeneo, e in alcune zone questo effetto, che tante volte è richiamato, si presenta già da tempo, diciamo, già da alcuni anni. Oltretutto in quelle zone, penso agli atolli polinesiani, l'innalzamento di 1 o 2 metri comporta la sparizione dell'isola, in pratica. Noi pensare a 20 centimetri di acqua in più, un po' di spiagge in meno, tra virgolette, che è problematico lì, però basta molto meno lì, 40-50 centimetri per rendere assolutamente invivibile alcune comunità che si sono già spostate. Infatti mi ricordo di qualche anno fa dei rappresentanti di queste comunità, durante queste conferenze sul clima, che dicevano per colpa vostra, che loro chiaramente le piccole comunità degli atolli polinesiani non contribuiscono molto alle emissioni di CO2 o al riscaldamento globale o a qualsiasi altro tipo di inquinamento, e quindi diciamo per colpa vostra noi stiamo perdendo completamente le nostre terre. Esatto. E questo era già qualche anno fa, e adesso chiaramente sta purtroppo continuando anche alla luce di tutto Questo abbiamo visto finora. Ti ricordi anche due anni e mezzo fa c'era stato quel documentario con il consiglio del comune locale di questa isola, che ha fatto la riunione del consiglio sott'acqua con le mute, le bombole. Mi ricordo. Per far capire che insomma loro stavano già sott'acqua, no? E non era letterale, insomma, perché infatti si sono spostati. Tutta la zona dell'arcipelago del Nauru è sotto minaccia in questo senso. Alberto, ti fermo perché abbiamo una sola battuta. In Indonesia, dove questo fenomeno è, c'è già stata un annuncio di voler spostare la capitale Jakarta sul Borneo, cioè su una delle isole più grandi, delle 17.000 isole, quindi perché la città sta andando sott'acqua regolarmente. E Jakarta non è un paesino, cioè non è un'alluvione di 2-3 giorni, disastrosa, ma insomma poi superabile, è che proprio l'intera città, quindi tutte le fogne, le cose eccetera, stanno andando sott'acqua. Adesso non so quanto sia grande Jakarta, però non credo che sia un paese di 2-3 mila abitanti, si parla di milioni di persone. Va bene, adesso io direi la prima pausa musicale, e poi ritorniamo tra pochi minuti qui in Voce. Ed eccoci di nuovo in voce, quindi riprendiamo la puntata di Entropia Massima. Stiamo parlando con Alberto Castagnola di in parte di quello che ci siamo persi negli ultimi tre mesi tra la fine della scorsa annata di Entropia Massima e oggi. Adesso siamo a ottobre, quindi quello è successo principalmente a luglio e agosto. Ci siamo lasciati parlando di Groenlandia e Polinesia, eccetera. Adesso come continuiamo? Quindi spero che sia chiaro che i dati continuano nella stessa direzione, anzi si potrebbe dire che specialmente per la parte artico e l'Amazzonia siamo di fronte a un'accelerazione gravissima. Quindi molte delle previsioni drammatiche dovrebbero essere riviste verso il peggio. Adesso vorrei fare un elenco di eventi estremi. Bene. Quindi eventi estremi perché sono le cose che colpiscono di più dal punto di vista, come posso dire, giornalistico, insomma così, della notizia. E però a parte questo, poi danno la misura della intensità e della moltiplicazione di questi eventi, cioè in sostanza fanno capire molto meglio del dato statistico, del numero dei gradi, eccetera, che cosa sta succedendo realmente. E poi molte delle considerazioni che si fanno per un evento estremo possono essere, come dire, riprese e utilizzate anche per altri eventi o per situazioni che stanno maturando. Allora, il primo che ho trovato è questo particolare tifone che ha colpito le Bahamas, quindi è sempre in quella zona che nascono i tifoni, e questo è stato però è caduto sulle isole Bahamas creando un disastro. Ho visto certe foto, cioè intere isole con tutte le abitazioni completamente a terra, in muratura, in legno, eccetera, cioè proprio hanno spianato la situazione. Le vittime sono parecchie, ma soprattutto ancora non si sa il numero esatto delle vittime, perché i dispersi ne erano più di 5.000, i dispersi, cioè non quelli che in qualche modo avevano cercato di sfuggire. Poi il punto fondamentale è che questo particolare tifone dovrebbe aver superato i 250 km all'ora. Che wow. Spiega come dire, ha distrutto quella zona, e soprattutto il fatto che c'è un aumento della velocità. Quindi non solo si sono moltiplicati come numero di eventi, ma è aumentata la velocità al quale si muovono questi venti. Quindi anche l'intensità e il potenziale distruttivo. Cioè sono le due varianti della questione. Poi questo tifone, che ha un nome piacevole, che si chiama Dorian. Poi ha girato e doveva, così come tradizione, diciamo, come normalità dell'area, doveva andare verso la Florida, e invece ha girato e è passato su North Carolina e poi Georgia, quindi più all'interno. E quindi ancora una volta sono ormai più anni che denunciamo questo fatto, dando i nomi, le cose, eccetera, però questi eventi continuano a peggiorare in maniera piuttosto veloce. C'è un dato non quantitativo, perché è una ricerca in parte in corso e che dovrà essere completata, cioè hanno cominciato a vedere che sono in corso di esaurimento le acque sotterranee, cioè tutte le sorgenti, i torrenti che scorrono sottoterra anche a una certa profondità. Hanno cominciato le rilevazioni, le misure, e anche queste acque sotterranee sono in diminuzione. Ma questo a livello globale? Sì. Questo è un fenomeno complessivo, anche se i paesi esaminati non sono tutti. È chiaro. Però insomma, e quindi questo significa anche, ancora una volta, interruzione dei meccanismi di produzione agricola, perché certo, molte di queste acque sotterranee alimentano proprio le radici delle piante, per non parlare esaurendosi non arrivano più vicino alla superficie, eccetera eccetera, cioè c'è un meccanismo per non parlare dell'acqua potabile, ovviamente. Esatto. Poi è confermato che in Antartide si stanno sciogliendo i ghiacci. Cioè, io vorrei sottolineare questo aspetto, perché sono 2 anni che lo stiamo dicendo, lo stiamo documentando, però si continua a dare molta importanza all'Artico, cioè al nord, soprattutto perché, come dire, tutti i paesi europei stanno nell'emisfero nord, mentre l'Antartide sta dalla parte opposta ed è lontana rispetto alle nostre città e alle nostre nazioni. E invece comincia a essere molto chiaro che, diciamo, si stanno sciogliendo anche lì, e quindi c'è una cifra che dice che si sono sciolti almeno 2 milioni di chilometri quadrati, si sono sciolti 2 milioni di chilometri quadrati, e poi c'è stato un ulteriore distacco di una parte di ghiaccio marino, cioè di ghiaccio che, di un ghiacciaio che nasce sulla terraferma e si protende sul mare, e quella parte è caduta ed è il terzo evento, perché la dimensione è molto, non è uno scoglio, un iceberg, sì, certo, è proprio una fetta di ghiacciaio. Poi un altro di questi eventi, in Islanda hanno fatto una cosa, hanno fatto anche una cerimonia, hanno messo una targa eccetera, e hanno come dire, reso nota la morte di un ghiacciaio, cioè la sparizione completa e la impossibilità di ricominciare a riformarsi data la situazione del tempo. È successo anche qui sulle Alpi, in Val d'Aosta, se non mi ricordo. No, aspetta, quello è un altro ancora. Okay. Qui invece è un ghiacciaio che è scomparso. Lì è un ghiacciaio che si sta, adesso ne parlo. Ok, immaginavo. Però, sì, però questo è importante, perché è un ghiacciaio che è completamente scomparso. E il nome, e non so come si pronuncia, è Okijakul, più o meno. C'è un K e una J, cioè 2 K e una J in mezzo. I famosi nomi islandesi, evitiamo la pronuncia. Quindi, insomma, c'è questo che è un fenomeno ovviamente particolarmente grave. Poi, quello che invece interessa a noi, nel senso che in Italia è stata data molta importanza, è questo ghiacciaio che sta sopra Courmayeur, cioè quella è un Gran Jorasse, cioè il versante italiano del Monte Bianco. E le prime rilevazioni davano da 30 a 35 centimetri al giorno di spostamento. La settimana, 6 giorni fa, hanno detto che in quel giorno precedente c'era stato uno spostamento di 1 metro. Quindi è in spostamento, continua a muoversi e sta evidentemente aumentando la velocità. Allora, devo dire, per fortuna non sotto, cioè, ci sono delle abitazioni, però non ci sono delle città, insomma dei luoghi abitati immediatamente. Quindi anche se viene giù tutto il ghiacciaio, non ci dovrebbero essere dei guai in termini di persone. E il problema è che si blocca tutta una strada e poi bisogna arrivare, insomma ci sono dei danni gravi a tutto l'ambiente, perché è una specie di enorme valanga che scende. Certo, quindi sono danni infrastrutturali intanto, oltre a danni climatici, ambientali, esatto, paesaggistici, anche danni infrastrutturali, comunque non vanno assolutamente sottovalutati. No, non solo, ma poi cambia, come dire, dire, tutta l'assetto della montagna, no? Cioè cambiano le immagini, insomma. E l'altro giorno mi stavano dicendo che stavano descrivendo gli effetti della xylella sulle piante, e la persona che me ne parlava dice: è cambiato il paesaggio, che sono 250 chilometri con questi alberi o tagliati o diventati completamente neri, e quindi è cambiato una parte della Puglia, è cambiata. Noi certe volte non è un problema estetico, no, è chiaro, no? È chiaro. È cambiato tutto, cioè tutta la vivibilità della zona, ma anche l'economia, perché la gente vive di quello, quindi ci stanno tutti gli effetti, tutti gli effetti a cadere, è chiaro. Un ultimo elemento importante sempre di questi eventi un po' estremi è che in Sudafrica hanno cominciato a misurare, sono piuttosto spaventati, perché l'aria sta diventando tossica, l'aria della città. Questo perché evidentemente ci sono industrie nella zona, ci sono miniere, ci sono impianti industriali, e quindi l'aria però per i cittadini sta diventando, diciamo, sta superando tutte le soglie di sicurezza. E quindi questi sono quelli che mi sembra siano successi in questo periodo di 3 mesi. Che non sono pochi, direi. Non sono pochi, e come dire, continuano a far capire la complessità dei problemi, eccetera, eccetera. Allora, visto che abbiamo... Se puoi interrompere, sì, poi c'è un ultimo pezzo piccolo. Perfetto, allora interrompiamo adesso dopo questo... splendido elenco di disgrazie che sono successe in quest'estate. Non ci si può distrarre un attimo con questa trasmissione, che abbiamo nuovi elenchi di uragani e disgrazie, però purtroppo la realtà è questa, e dobbiamo conviverci, e dobbiamo almeno esserne informati. Quindi una pausa musicale. Ma forse dovremmo fare qualcosa di più, però vedremo. Ce lo rimandiamo al prossimo, all'ultima parte di trasmissione. Per ora ci ascoltiamo Lou Reed e torniamo tra 3 minuti in voce. Different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. You know it took me by surprise. I knew that you felt it. sweeter than wine. Ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Ed eccoci di nuovo in voce con l'ultima parte di trasmissione. Prego, allora, Alberto. Volevo darvi qualche dato sul Sudafrica. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che l'inquinamento atmosferico, cioè quella, l'aria non buona, uccide più di 7 milioni di persone all'anno, che è una cifra insomma abbastanza consistente, insomma, però viene data così. E parlando invece di questi 7 milioni, 20.000 sono sudafricani, quindi delle varie città del Sudafrica. E queste le indicazioni sono che è irrespirabile per tutte quelle cose che abbiamo detto, più altre, cioè fumo, gas di scarico, sostanze chimiche, polvere in senso generale. E le stime più prudenti portano ad un bilancio di 54 morti al giorno. Ecco, quindi questa è la situazione di un paese piuttosto industrializzato, da tempo industrializzato, eccetera, ma che non è delle nostre grandi città, quindi sono, evidentemente noi possiamo avere dei tassi di inquinamento altrettanto importanti. Ora, in questo terzo pezzo, oggi per motivi di tempo abbiamo sottolineato più che altro l'azione degli scienziati, cioè questi scienziati che stanno, c'è tutto un numero piuttosto elevato per fortuna, gli scienziati che stanno studiando tutti questi meccanismi e che continuamente mettono a punto sia le analisi sia gli strumenti per migliorare le analisi stesse. Il potere è ovvio, nel senso che quando poi uno legge di seguito gli articoli, i testi, ci si rende conto che dietro c'è sempre l'industrializzazione, le miniere, eccetera. Quindi è inutile che lo rifacciamo questo discorso in questi termini, e quindi però dovremmo riuscire a capire molto meglio, perché non ne siamo ancora tutti così coscienti, del stretto collegamento che c'è tra attività produttiva di tipo capitalistico e tutta l'attività del clima. Cioè c'è un collegamento univoco, nel senso che si influenza una vicenda continuamente, e quindi noi invece ancora oggi credo che anche da una sinistra seria ancora da un lato si condanna il sistema capitalistico e dall'altra si parla di ambiente senza vivere fino in fondo la profondo legame che c'è tra le due cose. E quindi molte volte anche le manifestazioni contro il riscaldamento vengono viste come una manifestazione generale, generica, umana, e non come una lotta in piedi contro il meccanismo di tipo capitalistico. Cioè questo è un discorso che io lo apro, butto lì, però dovremmo riprenderlo. Riparleremo. Tra l'altro adesso ti interrompo al volo perché è arrivata una telefonata che non sono riuscito a prendere in trasmissione, è arrivato in un momento in cui non sono riuscito a prenderla, e mi hanno detto dalla redazione, sì, hanno citato dell'esistenza di un gruppo di negazionisti a Geologia della Sapienza. Immagino si tratti, ne parleremo oggi, non abbiamo il tempo, però sicuramente ne parleremo nelle prossime puntate, di quel manifesto, diciamo così, manifesto di intenti di 500 scienziati che hanno firmato, non scienziati legati direttamente al clima, ma anche molti geologi. Io sono geologo, quindi abbastanza tra virgolette stupito e preoccupato da questo, in cui si nega fondamentalmente non tutto, perché chiaramente tutta l'evidenza non può essere negata, però si minimizza moltissimo, si minimizza soprattutto il ruolo dell'uomo. In realtà, secondo noi, il ruolo dell'uomo è fondamentale, però ne parleremo sicuramente in maniera più approfondita all'interno delle varie rubriche nelle prossime settimane, di quanto dice una parte della scienza, diciamo così, negazionista. Certo. Ma guarda, intanto c'è un libro molto interessante in italiano, di cui consiglio vivamente la lettura, che si chiama Stefano Caserini, è questo esperto che ha fatto tutta l'analisi di tutti i tipi di negazionismo esistenti. Quindi, perché sono diversi e si appoggiano su teorie diverse, insomma c'è una situazione un po' complessa. Quel numero di 500 è mondiale, cioè è quello globale. Sì. Però in Italia 120, non mi ricordo i numeri, però c'è un gruppo di italiani che lo ha firmato. Sì, gli italiani sono 145. 145. Capeggiati da Zichichi, famoso, sì. Eccetera, eccetera. E però l'ultimo testo che hanno fatto, perché è interessante, non è che negano proprio l'apporto umano, cioè la causazione umana dei danni ambientali, quindi non parlano mai di che tipo di danni ci sono, non ci sono, se stanno peggiorando eccetera, negano che abbiano origini umane, cioè abbiano origine nelle attività umane, quindi nelle industrie, non so se è un po' diverso, e si negano la parte antropica esatto, e quindi e addossano la colpa in questo gruppo in Italia al sole, quindi alle mutazioni delle emanazioni solari, delle macchie solari, eccetera, eccetera, che è uno dei meccanismi appunto analizzato a fondo da Caserini, quindi è molto divertente leggerlo, perché insomma che esiste, è sempre esistito, ma non c'entra niente col discorso della antropocene, cioè dell'attività umana. Allora, quindi questo lo accenniamo e poi magari lo riprenderemo in maniera più sistematica. E l'altro, io vorrei in questa parte qua, a differenza delle volte scorse, volevo provare a fare un qualcosa invece in questo più vicino al discorso del potere, cioè sì. Quindi finora abbiamo parlato di dati in maniera non molto scientifica, ma insomma di dati scientifici, e invece io vorrei provare qua a parlare di interventi pubblici, quindi di che cosa si sta succedendo, e parlare appunto che tipo di proposte vengono fatte, come vengono fatte, eccetera eccetera. E vorrei farlo sempre, cioè ogni volta provare a tirare fuori degli argomenti molto precisi, e ovviamente anche le contromisure, cioè le manifestazioni, le cose eccetera. Allora, per questa sera, cioè nel tempo che ci abbiamo, io volevo sottolineare, cioè parlare di 4-5 punti molto semplici. La prima è che ci sono già 26 di dichiarazioni di emergenza climatica, cioè azioni dal basso che spingono perché enti locali, regioni, Stato, eccetera, dichiarino l'emergenza climatica nelle aree territoriali di competenza. Questo è una delle cose che è cominciata, l'ultima è stata approvata a Roma, ovviamente poi bisogna vedere che cosa succede, cioè chi fa qualcosa e via dicendo, però è sicuramente uno degli obiettivi che dovrebbe essere per esempio imposto a tutti gli enti locali, cioè gli 8.000 comuni in Italia dovrebbero tutti dichiarare eccetera eccetera. È un grosso lavoro politico da fare, però insomma è il momento di cominciare. La seconda questione è che il governo negli ultimissimi giorni, proprio da pochissimi giorni, ha cominciato a dire che si occuperà di clima. Finora nelle dichiarazioni del nuovo governo il clima era sempre in quarta, quinta posizione, cioè era una delle tante cose che si indicava di voler fare. Beh sì, un progetto estremamente ampio di governo, ogni tanto... No, per il momento stiamo proprio alle dichiarazioni, sì, io direi neanche ampio, proprio se ne occuperà questo organismo, cioè il Consiglio dei Ministri, poi il CIR, poi insomma più che altro ha parlato... quelle cose che sono apparse sui giornali sono come posso dire misure amministrative, cioè di gestione di questa cosa, quindi ancora sui contenuti si ha molto poco, però alcune parole ci sono già e sono sbagliate. Quindi si parla di sviluppo sostenibile, che vuol dire migliorare un po' il clima ma senza intaccare il meccanismo economico dominante, e dall'altra parte si parla di green economy che sì, va per la maggiore su tutti i giornali confindustriali, però sono sempre misure apparentemente ambientali che perseguono il profitto. Ci sono sostenibilità e green economy, penso di averle sentite almeno un paio di volte al giorno tutti i giorni negli ultimi 2 o 3 anni. Veramente sono un po' una parola d'ordine. Però di cui... finora erano posizioni politiche, qualcuno che, ecco, adesso c'è qualcosa che si sta muovendo a livello istituzionale, che non significa nulla, cioè possono non fare nulla, eccetera, eccetera. Però dobbiamo tener conto del fatto che è cominciato questo tipo di attività. Che va monitorata da parte da seguita e controbattuta, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'altro parte. L'altro punto che mi sembrava assolutamente importante da segnalare è che